Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy D-Mike. You see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Leggere è un modo... Buona domenica e ben ritrovati, ben ritrovati alla puntata consueta che ogni mese teniamo di Poyo It. Sto parlando ma non si sente la mia voce. Allora, se mi sentite, un secondo di pazienza, scusate. Bene, questa invece è per davvero. Eccoci tornati su Poyo It, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Ogni prima domenica del mese, da ora, da settembre, ricominciamo il consueto appuntamento con questa trasmissione dedicata alla letteratura libera, resistente, indipendente e contraria al mercato e al mondo capitalista nel quale viviamo. Vogliamo tenere alta questa bandiera di letteratura sociale, lo facciamo anche oggi e per tutto l'anno assieme al mio amico, compare, poeta Edoardo Olmi, che sta scorazzando in A1 e tra poco mi raggiungerà qua per la diretta. Nel frattempo ancora un attimo di musichetta. Va bene, ci siamo, scusate, intanto è un po' la ripartenza dopo l'estate, quindi un po' di emozione, nonché di difficoltà tecniche, probabilmente adesso superate. Quindi, mi resta soltanto da ricordarvi che ci potete contattare in diretta su postawombat@insiberia.net oppure dal pad sul sito, cliccando sulla sezione contatti o direttamente nella sezione dello streaming. Il sito, lo ricordo, è radiowombat.net, ci state ascoltando in streaming da lì, oppure in podcast, o magari invece sulle 13.59 AM, la frequenza sulla quale trasmettiamo. Allora, non ho ritorno in cuffia, quindi sono affidato alla barretta blu del mixer. Spero che non vada troppo male. Nel caso in cui così fosse, magari scrivetemelo. Dunque, prima di annunciare i temi di oggi, ricordo soltanto che la trasmissione va in onda ogni primo domenica del mese, dalle 15.30 alle 17 o 17.30 a seconda. Questa è la terza stagione di questa trasmissione e oggi sarà una puntata quasi monografica. Vorremmo, quando ci raggiungerà Edoardo Olmi, ricordare il poeta e militante comunista americano Jack Hirschman, scomparso la scorsa settimana, anzi due settimane fa. Ne abbiamo già parlato più volte, abbiamo già anche fatto sentire la sua voce qui sulle frequenze della radio, in particolare in questa trasmissione, per alcuni eventi che ha tenuto in Italia. Ne parleremo più avanti con chi fra l'altro gli era molto vicino e aveva condiviso con lui parte del percorso poetico e politico. Lo faremo appunto fra poco, ma prima di tutto annunciamo un appuntamento che si terrà questo fine settimana, ed è il Festival Firenze Rivista. Il Festival Firenze Rivista si tiene alle Murate, si terrà l'edizione di quest'anno nel prossimo fine settimana, ovvero 17, 18 e 19 settembre. Il tema di quest'anno è Passaggio. Da poco è stato rilasciato il programma completo. Il festival è organizzato dalla casa editrice FQ assieme alla rivista L'Eco del Nulla e alcuni partner, fra cui l'Università di Firenze, il Premio Italo Calvino, l'Accademia della Crusca e tutto è patrocinato dall'Estate Fiorentina e dal Comune di Firenze. Il festival è comunque a ingresso gratuito, si svolge in tre giorni, in tre ambienti diversi del Caffè del Letterario e della Piazza delle Murate. Il programma è molto ricco, ci sono un sacco di eventi, anche in contemporanea, nei tre ambienti nei quali gli eventi si tengono, l'esposizione e ci saranno i banchini delle riviste, delle case editrici. Tutto quanto questo è a ingresso, ricordo appunto, gratuito. Il programma si può trovare sul sito firenzerivista.it oppure in cartaceo a giro per la città. Il programma, dicevo appunto, è molto lungo, quindi non c'è nemmeno il tempo per leggerlo per intero. Invito comunque a chi ci ascolta e volesse partecipare a farlo, anche per evitare, insomma, magari di mancare uno dei tanti appuntamenti che si svolgono in contemporanea. Fra i molti, giusto così a volo d'angelo, a partire dall'inizio di venerdì 17 arrivando alla fine della domenica sera, cominciamo con, per esempio, alle 15 i sinonimi del passaggio secondo Firenze Rivista, come esplorarsi la mente cozzando sulle parole, con le parole di editori e riviste, con Giorgio Moretti, che è direttore di Una Parola al Giorno. Molti eventi durante appunto queste giornate. Alle 16, per esempio, sempre di venerdì, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, ci sarà l'iniziativa Memorie e Identità in Movimento, l'eredità delle ex colonie italiane tra musei, diaspore e cittadinanza, con Emanuela Rossi, che è docente di antropologia all'Unifi, Vittorio Longhi, giornalista e autore del Colore del Nome, e Beatrice Fallucci, che è dottoressa di ricerca sempre all'Università di Firenze. Ancora molti eventi anche specifici sull'editoria, legati al fare un libro, a alcuni laboratori a cui è necessario prenotarsi. Sempre al venerdì alle 17 ci sarà invece la presentazione della Guida all'autodifesa digitale, pubblicata da Contrabbandiera Editrice, che è una guida di cui abbiamo comunque già parlato, è rilasciata peraltro per intero in free download sul sito numerique.noblogs.org, sia la prima parte, quella offline, che era stata presentata l'anno scorso ad ACT Meeting a Roma, sia la parte online, che è quella che viene presentata in questa occasione venerdì 17 alle 17 alle Murate. Ci saranno anche due attiviste del collettivo IFDU, che è la club fiorentino. Sempre alle 17 ci sarà l'evento Lettere e Letterature, la dimensione fisica del rapporto epistolare fra arte e scrittura, con numerosi partecipanti: Lorenzo Ghetti, Maria Grillo, Laura Fidaleo e Zeno Toppan e numerosi altri. Ci sono ancora alcuni eventi come quelli a cura di Medici Senza Frontiere, sempre il venerdì alle 18, che si intitola Donne in guerra, la sanità nelle aree belliche tra formazione, nascite e interruzione di gravidanza, con Silvia Torelli, che è ostetrica per Medici Senza Frontiere in Siria, in Iraq e in Libano, e Valentina Pagliai di Human Rights Center. Andando avanti così per vedere un po' qualcosa in tutti i giorni, sabato 18 inizia invece la mattina il programma già dalle 10 con un evento a cura dell'Accademia della Crusca che si intitola La lingua italiana, le lingue italiane, come, quando e perché usiamo i registri linguistici, un evento che vedrà ospite insomma a condurlo Francesca Cialdini, che è filologa e collaboratrice dell'Accademia della Crusca. A seguire alle 11.30 invece Dire la disabilità, dall'abilismo alla visibilità, con la sociolinguista Vera Gheno, che è anche autrice del Potere delle Parole, e con l'attivista Jacopo Melio. Molti altri temi, dalla città di Firenze, la ripartenza a seguito della pandemia, la questione del lavoro culturale nella città turistica, nel pre-post pandemia, i temi ancora dei dialetti, come quello alle 12 che si tiene un evento di regione in regione, l'Italia nel passaggio geografico fra un dialetto e l'altro, un paio di eventi sulla traduzione, sui classici in particolare. Il primo è alle 15 di sabato 18, si intitola Le lingue, tradurre i classici, la lingua viva di Émile Zola, con Stefano Valenti, che è il traduttore di Germinal, appunto di Zola. C'è un evento analogo anche il giorno dopo, eventi sul tema della città, poi sulla narrativa fantascientifica, sul corpo e il linguaggio, su ancora workshop di editing interattivo alle 16, un evento su Dante sempre alle 16, Dante libera tutti, a che cosa servono e non servono Dante, la sua lingua dopo 700 anni, un evento a tema sportivo alle 16 in collaborazione sempre con l'Università di Firenze, che si intitola Fare sport, fare politica, diritti, riconoscimento e cittadinanza fra le Olimpiadi di Tokyo e i mondiali in Qatar. E ancora prima persona plurale con Control ed FQ, la memoria collettiva fra fiction e reportage, alle 17 dall'apocalisse alla festa, e poi alle 17 ancora un evento, come dicevo era alle 17, mi sono sbagliato, non il giorno dopo, sulla traduzione, la potenza della voce, tradurre le grandi autrici americane, con Gaia Cenciarelli, traduttrice di Flannery O'Connor e Margaret Atwood, e Silvia Costantino, che è direttrice editoriale della casa editrice FQ. Ci sono ancora laboratori, c'è l'evento Mangia, Consuma, Lavora, le prospettive dell'anno che ha demolito la vita culturale del paese, alle 18, sull'architettura, sul lavoro, come l'evento delle 19, Nati per soffrire, lavoro e sfruttamento attraverso la pandemia, con Marta Fana, che è autrice di Non è lavoro e sfruttamento, e Monica Pacini, che è docente di storia contemporanea, nonché Dario Raspanti, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Firenze. E alle 19 conclude la serata la lettura, presentazione di Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, di e con Alice Diacono, che è un'attrice che abbiamo avuto a Firenze allo scorso Festival di Letteratura, ma prima ancora qui ai microfoni sempre di Poiuit, con la presentazione del suo libro assieme all'editore Lorenzo Battaglia. Era anche lui nostro ospite, ha fatto alcuni reading, abbiamo parlato assieme a lei del suo libro, chi volesse insomma riascoltarlo sono sicuro che apprezzerà e magari sarà invogliato a venire sabato 18 alle 19 dopo le molte manifestazioni del giorno, tra l'altro, che ci saranno in città. Un po' di musica prima della domenica. Sì, eccoci, allora siamo a domenica 19, ancora per finire il programma di Firenze Rivista. Numerosi eventi, ora non magari davvero invito più che altro a leggerlo sul sito firenzerivista.it, a scaricarlo in PDF come io ho fatto, lo sto guardando davanti a me. È anche difficile scegliere, ad esempio potrei dire che alle 16 ci sarà Queer, Amare secondo natura, l'armonia naturale e l'apertura verso l'alterità in Confessioni di un omosessuale a Émile Zola. Questo è un evento presentato da WOM Edizioni con Matteo Pinna, che è direttore editoriale, e Maya De Leo, che è docente di storia dell'omosessualità a Torino, nonché autrice di Queer, storia culturale della comunità LGBT+. Alle 16 nel sottobosco culturale, imparare a districarsi fra Vanity Press e autoproduzione. Ci sarà un evento in contemporanea, Muori prima di morire, l'elaborazione del lutto attraverso l'arte, con Francesco Rialti, con Francesco Disa, che è direttore dell'Indiscreto, e Edoardo Rialti, che è docente, scrittore, traduttore, nonché anche gli autori dell'Indiscreto, e Vanni Santoni, scrittore e autore, fra gli altri, dei Fratelli Michelangelo. Ancora eventi a tema traduzione per la domenica pomeriggio, banda larga alle 17, l'espansione dell'approfondimento al mondo virtuale, e poi ancora fino alla sera alle 19 con Hit Me Baby One More Time, Tropismi e In Fuga dalla Bocciofila presentano questo evento che si sottotitola Il ritorno degli anni zero, cinema, musica e cultura al vaglio del presente, col commento musicale di Q assieme a Gabriele Merlini, autore di Rockeriglia, Adriano Pugno di Tropismi, Viola Valeri In Fuga dalla Bocciofila e Lavinia Ferrone, scrittrice e comica. Molte le case editrici che prendono parte all'evento, molte di più ancora sono le riviste. Per tutte le informazioni del caso rimando di nuovo al sito firenzerivista.it. Questo fine settimana non abbiamo parlato delle manifestazioni del sabato, ma tanto sarà dato sicuramente largo spazio nelle altre trasmissioni più specifiche qui su questa radio agli appuntamenti di domenica 18. Adesso io metto una canzoncina. Tu regretteras. is a burning thing, and it makes a fiery ring. E rieccoci sempre in diretta, sono le 16 esatte di domenica 12 settembre 2021, riprende oggi il consueto appuntamento con Poi Uit, Lettere Contrarie, la trasmissione di letteratura di Radio Wombat ogni prima domenica del mese alle 15.30. Io sono Mario, fra non molto spero mi raggiungerà il buon caro vecchio Edo Olmi, col quale vogliamo, come avevo anticipato in apertura, fare un ricordo abbastanza approfondito, insomma, visto che lui meglio di me lo conosceva, di Jack Hirschman, il poeta americano scomparso recentemente, fondatore tra l'altro delle Brigate dei Poeti Rivoluzionari, molto amante della cultura, della poesia, della letteratura italiana, aveva tradotto in dall'italiano, aveva vinto alcuni premi letterari tra l'altro anche in Italia, ma ne parleremo fra non molto assieme a Edoardo. Adesso vi voglio, in attesa del suo arrivo, parlare proprio del mio amico Edoardo Olmi, che ieri ha fatto la presentazione del suo nuovo libro, Stagioni Scalene, un libro edito da Ensemble, dentro a Affluenti, che è la collana editoriale da lui diretta, insieme a Marco Incardona, e la sua terza raccolta poetica dopo Il Porcospino in Pegaso, che aveva già pubblicato nel 2010 per Felice Edizione, poi ristampato da Ensemble nel 2017, e che era stato anche autore di Rexistence, sempre pubblicato per Ensemble nel 2017, col quale fra l'altro è stato finalista al premio Carver e ha vinto la 12ª edizione del premio Nabokov. Ha scritto su alcuni siti, su qualche rivista sono state pubblicate le sue poesie, che sono state anche tradotte in spagnolo e in inglese. Abbiamo pensato di non rimandare oggi, anche se all'inizio avevamo così programmato una parte della sua presentazione, perché avevamo appunto pensato oggi di dare piuttosto spazio al ricordo di Hirschman, recentemente scomparso, e abbiamo pensato invece di rimandare la presentazione di Edoardo fra un mese. Quindi chi è mancato all'evento di ieri, avesse piacere di sentire cosa ha detto, cosa ha letto, cosa gli è stato chiesto e cosa ha risposto, lo può fare, ma deve aspettare un mese, perché fino al mese prossimo non la caricheremo nemmeno qua sul sito. Posso dire però che è stata davvero una bella presentazione, ricca di spunti e di interesse, insomma, di dialoghi e scambi. Ci sono state letture potenti, molti temi toccati, dalla questione pandemica al linguaggio del potere, alle città del cuore, dell'anima, come Roma, Firenze, alla zona dell'Isola d'Elba. Vi sono state ricordi di Assanati al-Nassar, di cui una poesia per il quale ha scritto una poesia che già aveva letto qui su questa radio prima di pubblicare su il giornale di strada Fuori Binario, e poi è confluita qui in Stagioni Scalene. È stato un momento molto emozionante quello della sua lettura e del suo ricordo di Assanati al-Nassar. Questo è il tema della puntata del mese prossimo, però, perché adesso vediamo come va. Intanto io vi metto un'altra canzoncina, sì, che ce l'ho bella pronta. Prima si intitolava Septembre, era della Femme, adesso invece è Patti Smith, giusto perché settembre e primavera si assomigliano, l'aurora e il tramonto hanno una stessa luce. E allora smetterla di dire parole a caso e mettere April Fool potrebbe essere una buona idea. Buon ascolto. But the fire went wild. I felt come, you're the only one. love is a burning. Allora, intanto vi vorrei segnalare una interessante iniziativa editoriale proprio di questi giorni. È uscito infatti questa settimana, edito da Edizioni Piagge, la casa editrice del quartiere delle Piagge, del centro sociale Il Pozzo, che nella bottega del commercio solidale ha una libreria, una distribuzione di un sacco di prodotti, anche di commercio ovviamente ecosolidale, ma molti fatti anche dai carcerati e da associazioni di volontariato, e è tutto molto interessante. Fra il resto è stato pubblicato proprio dalla casa editrice un piccolo libriccino, costa 6 euro, si intitola Insorgiamo, storia di Bruno Martina e altri 420, è un racconto di Stefano Massini per i 422 operai licenziati dalla GKN. Ci sarà il 18, ricordo, alle 15 una manifestazione proprio a Firenze dei lavoratori GKN. Incluso in questo libricino c'è uno scritto di Piero Pelù, un'introduzione di Andrea Cusmano e Lea Iandiorio. Dietro, quarta di copertina, nel luglio si spiega come nel luglio del 2021 la GKN, fabbrica metalmeccanica di fama internazionale, decide di licenziare tutti gli operai dello stabilimento di Campi Bisenzio alle porte di Firenze. I dipendenti apprendono la notizia attraverso una mail o un messaggio sul cellulare. Lo scrittore Stefano Massini, cresciuto proprio nel territorio della fabbrica e testimone della sua costruzione, dopo aver manifestato in corteo con gli operai, decide di modificare all'ultimo momento il suo intervento programmato al Festival Internazionale Letterature di Roma, nei Fori Imperiali, facendone un racconto sulla drammatica vicenda dei 422 operai. I giornali dedicano ampio spazio alla provocazione dell'autore, consacrando il caso all'attenzione nazionale. Ecco, dopo 3 giorni, davanti a oltre 1000 persone, fra operai e familiari, il racconto di Massini diventa l'occasione per una memorabile serata spettacolo di solidarietà ai lavoratori, a cui danno adesione, fra gli altri, Piero Pelù, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Carlo Verdone, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e tantissimi altri. Questo libro, edito nell'immediato seguito della serata del 28 luglio 2021, si presenta ai lettori con l'unico obiettivo di raccogliere fondi per la lunga battaglia di diritti degli operai GKN. A loro, infatti, saranno devoluti gli incassi delle vendite. Il librino, che ripeto costa 6 euro ma che va a finanziare la lotta, la battaglia per i diritti degli operai GKN e non solo per loro ovviamente, edita da Edizioni Piaggio, si può trovare nella bottega del commercio eco e solidale tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, di mattina e pomeriggio, presso il centro sociale Il Pozzo, piazza Ilaria Alpi, alle Piagge, oppure anche ce ne saranno alcune copie, so, proprio al festival di 17, 18, 19 Firenze Rivista, in uno dei banchini sicuramente ci sarà. Adesso direi che è il momento di un'altra canzoncina e poi, vada come vada, Edo o non Edo, inizieremo col ricordo di oggi di Jack Hirschman. Avanti, avanti. Change a step aside. It's all for a view that took you by surprise. The sun's coming up, yeah, new dawn arrives. A generation standing there with anger in their eyes. No love in the city, cause there's no connection. Stricken by disease, a racial infection. I'm a battery man coming through to you. Different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, he'll treat me like his. We're an eye for an eye, yeah, tooth for tooth. Brother against brother, should be singing with the group. The inner city's burning. nothing you can do. Need a different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, but treat me like his. Of all the blood that spills, of all the guns that fly, the media paints a picture that stains all our eyes. Pits the dogs against the cats. Now who is responsible for the power and the issue? The forces unstoppable. Oh, man. Diretta, scusate, funziona? Sì, sempre in diretta, sono le 16:15. Adesso andiamo a iniziare quello che avevamo annunciato essere il tema centrale della puntata di oggi, anche se arriva dopo un po', ma del resto va bene così e dimostra che siamo effettivamente in diretta. Allora, intanto ricordo che ci potete contattare su postwombat@insiberia.net oppure sul pad cliccando sulla pagina dei contatti sul sito Radio Wombat. .net. Un saluto intanto a chi ci scrive, sono contento che si senta nonostante la barretta blu sia il mio unico riferimento, evviva evviva, la prossima volta promettiamo di migliorare anche su questo. Allora, Jack Hirschman, scusate, 30 secondi. Eccoci, sì. Dunque, noi vogliamo adesso ricordare questo poeta nato nel 1933 a New York, che ha vissuto anche a lungo all'estero e che è sempre stato da una parte sola. Prima di tutto vorrei dire intanto che sul sito della Casa della Poesia c'è la sua biografia più aggiornata. Del sito della Casa della Poesia ne abbiamo già parlato qui a questa puntata, su questa trasmissione in passato. È un luogo fisico e virtuale che si propone di essere un contenitore, una raccolta di scritti, testi, ma anche materiali video, audio, biografie, fotografie, eccetera, di autori e autrici legati alla poesia, con uno sguardo molto attento alla poesia internazionale. Vado a memoria e se non sbaglio è nato nel 2013 proprio in provincia di Salerno, si è poi esteso in molte altre parti d'Italia e del mondo, ha infatti numerose sedi, organizza eventi, piccoli e grandi, festival, sempre attenti alla poesia internazionale. Jack Hirschman, di cui parliamo, ha a lungo collaborato con questa istituzione, credo anche ne sia stato uno dei fondatori, ma non vorrei sbagliare, senz'altro c'è sempre stato molto, molto vicino. Allora, il sito è la casadellapoesia.org, lì ci sono, come dicevo, le informazioni più aggiornate su Jack Hirschman, nonché alcuni scritti inediti, alcuni materiali d'archivio, qualcosina manderemo anche fra poco. Allora, prima di tutto io direi di raccontare un po' di, in generale, la biografia di quest'uomo e questo poeta del quale vogliamo parlare oggi. Jack Hirschman è nato, avevo detto, nel 1933, il 13 dicembre, nel Bronx. Quando ancora frequentava il liceo iniziò a scrivere come reporter, fino a quando poi completò gli studi a New York, laureandosi all'università con una tesi su Joyce. È il 1953 quando Hirschman invia alcuni suoi racconti, se non sbaglio anche alcune poesie, a Ernest Hemingway, che gli risponde in una lettera che poi in seguito sarebbe stata pubblicata su alcuni giornali, fra cui il New York Times, come lettera a un giovane scrittore. Se non sbaglio, anche qua se non ricordo male, vado a memoria, gli disse addirittura qualcosa tipo: sei più bravo di me ai tempi tuoi, all'età tua. Qualche cosa del genere. E se non era quello un incoraggiamento, voglio dire, cosa lo era? Mi pare di ricordare, fra l'altro, che gli chiedesse consigli stilistici, tecnici. Hemingway ovviamente scansò del tutto quello, parlò di sentimento. Questo avvenne nel 1953, e l'anno dopo sposò una sua compagna di classe del college, dal quale ebbe due figli. Fu professore Hirschman di inglese alla UCLA di Los Angeles dal 1961 al 66. Poi nel 65, in quegli anni, vinse una borsa di studio che gli permise di fare il suo primo viaggio in Europa. Visitò in queste occasioni Parigi, la Grecia, l'Inghilterra, e era proprio in Europa quando scoppiò la guerra in Vietnam. Erano quelli gli anni, tornò negli Stati Uniti, dove riprese l'insegnamento e dette vita, partecipò a una serie di manifestazioni e proteste contro la guerra, fra le altre la pratica di attribuire la A, cioè no, il voto più alto nel sistema americano, a tutti gli studenti passibili di arruolamento per aiutarli a sfuggire, ovviamente, appunto, alla guerra. Per via di questa sua attività, definita contro lo Stato, venne licenziato nel 66. Rimase in California negli anni dopo, scrisse, tradusse, dipinse, iniziò collaborazioni con alcune riviste, e arriviamo poi al 1972 quando infine traduce e pubblica dal francese Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien di René Depestre, che è l'opera di cui ha sempre parlato come quella che lo avvicina definitivamente al marxismo, del quale aveva già agli ideali del quale si era già avvicinato. Questa è l'opera che definitivamente lo conduce all'ideologia e al metodo marxista. Negli anni dopo visse a San Francisco, continuò a scrivere e tradurre poesia contemporanea, imparò fra l'altro il russo, e dopo un anno di traduzioni quotidiane, fra l'altro proprio dal russo, provò a scrivere anche alcune poesie in quella lingua. Dal 1980 si unisce al Communist Labour Party e lavora lì come attivista culturale con un gruppo di poeti, e fino allo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 1992, data ovviamente per nulla casuale. Dopo un periodo di transizione, divenne nel 94 membro della League of Revolutionary for a New America e contribuì alla fondazione del suo giornale, il People's Tribune, sul quale anche scrisse. Dirisse poi Compage negli anni 80, che è una rivista internazionale di traduzione di poesia rivoluzionaria, in cui poeti di tutto il mondo venivano tradotti in americano da un gruppo di poeti e traduttori, e a loro volta poi poeti americani venivano tradotti in altre lingue, proprio sull'attività di questa rivista, che veniva spedita in 50 paesi a gruppi rivoluzionari e organizzazioni culturali. E proprio in quegli anni Hirschman, fra l'altro, fra le molte altre cose, pubblicò l'unica antologia di poesia albanese degli anni comunisti, che sia stata pubblicata negli Stati Uniti, Javi Shak. È stato in contatto fino dagli anni 50, fin dalle metà degli anni 50, in molto stretto contatto con i poeti della Beat Generation, alle quali è stato molto spesso associato, dai quali però si differenzia molto presto proprio per le sue posizioni politiche. Era molto amico di Allen Ginsberg, di Gregory Corso, di Kaufman e di tutti gli altri poeti beat, però era dissidente da quella che lui riteneva essere una rivoluzione borghese fatta principalmente di droghe e misticismo orientale, mentre lui si è sempre dichiarato politicamente e culturalmente più vicino ai movimenti radicali afroamericani, a cominciare dalle Black Panther. Nel 72 cominciò a scrivere i lunghi poemi, una serie di lunghi poemi che continuò per tutta la vita, furono pubblicati a più edizioni, in più tempi, che si intitolano, non lo so pronunciare, Arcanes. Sono stati scritti, sono quasi 250, e piano piano negli anni, in particolare, sono stati pubblicati in 4 edizioni inglesi, una recentemente ripubblicata. Insomma, comunque si trovano, cercando anche sul sito casadellapoesia.org. Sento rumore di passi, potrebbe essere ritorno l'arrivo del buon caro vecchio Edo Olmi, quindi lascio un attimo di musichetta, vediamo se è così. Eh sì, è arrivato in diretta, abbiamo Edoardo Olmi, sudato e trafelato, ma è qui con noi. Ciao Edo. Ciao Mario, ciao Wombat, ben ritrovati, buona domenica. Allora, caro Edo, prenditi un goccio d'acqua, mettiti a sedere qui accanto a me. E intanto io stavo raccontando di Jack Hirschman, della sua biografia. Siamo arrivati fino agli anni 70, la stavo riprendendo dalla Casa della Poesia, di cui ho parlato, ho introdotto un po' di questa istituzione che organizza eventi culturali, convegni, eccetera. Ne abbiamo parlato, magari ci ritorniamo più avanti. Eravamo negli anni in cui pubblicava traduzioni di poeti stranieri in America, negli anni in cui gli stessi poeti americani venivano tradotti su riviste e poi diffuse in tutto il mondo. Abbiamo parlato dei rapporti con la Beat Generation, alla quale è stato spesso associato, anche se si differenziava per posizioni politiche più radicali. E in generale, poi, comunque, insomma, per andare verso un discorso d'insieme, possiamo dire che ha pubblicato più di 100 libri, opuscoli di poesia, saggi, traduzioni da ben 9 lingue, fra gli altri The Correspondence of Americans, The Bottom Line, Front Lines, eccetera, eccetera. Nella sua opera di traduzione ha lavorato con molti poeti, come fra gli altri Majakovskij, abbiamo parlato poco fa di come quotidianamente traducesse dal russo per esercitarsi in quella lingua negli anni 70 e 80, ma anche molti italiani, fra cui Pierpaolo Pasolini, più tardi faremo sentire anche qualcosa, Rocco Scotellaro, Porcelan, Heidegger, Neruda, René Char, Mallarmé, eccetera, eccetera, eccetera. È stato, fra l'altro, questo ho trovato molto interessante, curatore della prima importante antologia di Antonin Artaud, pubblicata negli USA. Fu pubblicata nel 65, influenzò profondamente intellettuali, scrittori, gruppi teatrali, su tutti il Living Theater che poi, insomma, ha consacrato molti attori in giro in tutto il mondo. Parlavamo del rapporto poco fa anche con l'Italia, molto stretto, abbiamo già qualcosa annunciato, più tardi qualcosa l'ho detto faremo anche sentire, ma è dagli anni 50 che inizia questo suo rapporto molto, molto stretto. Infatti, l'ho detto prima, il suo primo libro è Correspondence of Americans, la poesia che dà il titolo a questo suo libro fu pubblicata nella rivista Botteghe Oscure a Roma nel 1958, ben 2 anni prima della sua prima pubblicazione in inglese negli Stati Uniti. Poi in seguito, nel 1980, sarebbe stato in Sicilia per la pubblicazione bilingue del poeta siciliano Santo Catalì. Numerose presenze in Italia per edizioni di sue poesie tradotte, per traduzioni da lui svolte, per partecipazioni a premi, convegni, davvero numerose, quasi innumerevoli. Poi arriviamo verso gli anni 2000, facciamo un bel salto fino a quando la Before Columbus Foundation attribuisce a Jack Hirschman l'American Book Award for Lifetime, non sono tanto bravo, no? Con l'inglese, mentre poi nel 2006 arriva una consacrazione altissima, che è quella della città di San Francisco, che gli attribuisce il riconoscimento di poeta laureato, se non sbaglio fra l'altro vedo secondo poeta laureato di, mi sa aiutare, di San Francisco, quarto, ok, grazie, ora te lo passo, abbiamo un solo microfono oggi. Comunque è per capire i numeri di cui infatti si parla. Riceve nel 2007 il premio Alfonso Gatto a Salerno per la sezione internazionale, in giro per la Francia, Haiti, paesi del sud del mondo, cittadinanze onorarie in Italia. Arriviamo nel 2009 quando gli vengono dati gli incarichi per organizzare festival dell'International Poetry Festival di San Francisco, altri festival internazionali. In quello stesso anno, e qua Edo fra un attimo ti passo infatti il microfono, magari a cominciare proprio da questo, in quello stesso anno insieme, cioè nel 2009, assieme con Sarah Menefee, Kathleen Williams e Bobby Coleman, fonda le Revolutionary Poets Brigade, che è un'organizzazione, ne abbiamo già parlato qui in questa trasmissione, di poeti politicamente e socialmente impegnati. Questa brigata che ha oggi nuclei di aggregazione anche in altre città, ma anche, anche italiane, li abbiamo conosciuti anche assieme, sia a Parigi, sia a Roma, sia a Bari. Tu stesso ne hai fatto parte, fra l'altro, del nucleo romano nei tuoi anni romani, ora ci racconti. E andiamo a concludere con una serie di altri scritti che gradualmente, da lì in poi, dal 2010 in poi, anche in collaborazione con la Casa della Poesia e la Fondazione Alfonso Gatto, vengono pubblicati in America, in Italia, molti suoi scritti raccolti, vecchie edizioni ripubblicate, ristampate, con aggiunte, eccetera. È per la fine di quest'anno prevista la pubblicazione, finalmente, del quarto volume degli Arcanes, di cui, se, sempre che si pronunci così, di cui poco fa abbiamo parlato. Metto un attimo di sottofondo e Edo, ti passo subito il microfono. Beh sì, Mario, come tu stesso dicevi, Jack insomma è stato un personaggio importantissimo della cultura, della controcultura americana, ma non solo, direi della controcultura internazionale di questi ultimi anni, in particolare di cultura e di controcultura poetica, come molti grandi, diciamo così, di quest'epoca. E non solo, è stato tanto importante, la sua voce è stata tanto forte ed importante nel panorama della controcultura di questi anni, quanto a volte un po' sconosciuta, no? Comunque a volte non abbastanza riconosciuta e considerata per l'importanza, no? Lo spessore in qualche modo che la poesia e la personalità e anche non meno la vicenda storica, no? Biografica di Jack Hirschman hanno avuto in questi ultimi decenni. Tu stesso lo dicevi, lui è stato spesso associato alla cosiddetta parabola dei poeti beat, i quali, come insomma spesso accade o può accadere nella storia, credo non si siano neanche mai definiti beat, no? Ma lo sono stati attraverso catalogazioni o definizioni successive, considerate diciamo più o meno necessarie ad un lavoro di storicizzazione. Se questa dicitura stava un po' stretta già ai vari Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, eccetera, a Jack Hirschman, che è di una generazione leggermente successiva a quella dei Ferlinghetti, per capirsi che è scomparso anche Lawrence Ferlinghetti all'età di 101 anni nel 2021, Jack Hirschman era del 33, se non sbaglio è scomparso, è morto ad 87 anni, quindi era, diciamo, era da un punto di vista strettamente storico, forse storiografico, poteva essere considerato più un poeta tardo beat, diciamo, no? Di quella, della leva di quella generazione un po' successivo e immediatamente successiva ai personaggi più conosciuti a livello anche internazionale di quella corrente poetica. Ma se, come dicevo, questa dicitura di poesia beat e di poeta beat stava già stretta ai Corso, ai Ginsberg, ai Ferlinghetti, è stata e stava ancora più stretta a Jack Hirschman, perché Jack, nonostante venisse spesso associato ai cosiddetti beat, lui stesso non amava molto questa definizione, non amava molto questa dicitura e preferiva considerarsi ed essere considerato uno street poetry, un poeta di strada. E tant'è che lo stesso progetto che tu stesso citavi, delle Revolutionary Poets Brigade, nato nel 2009 proprio tramite Jack Hirschman, e fin da subito ha cercato di basarsi, di fondarsi su un'idea appunto di street poetry, no? Diciamo di poesia, di voce poetica, di lettura poetica, ma soprattutto di azione poetica, portata prima di tutto nelle strade, nelle piazze, nelle periferie delle metropoli, prima americane e poi internazionali, perché le Revolutionary Poets Brigade, nate se non sbaglio a San Francisco tramite Jack, si sono presto diffuse non soltanto in tutte o molte delle principali città metropoli degli Stati Uniti, ma anche in molte città europee, fra cui Roma, dove esisteva dal 2011, se non sbaglio, un gruppo, un nucleo delle Brigade, la Rome's Revolutionary Poets Brigade, di cui poi ho avuto il piacere di fare parte proprio dal 2012, se non sbaglio, fino circa al 2014-2015, anni in cui ho vissuto a Roma. Questo progetto delle Brigade appunto si sforzava, cercava di portare una lettura poetica, una voce poetica e soprattutto un'azione poetica anche non meno in spazi e contesti di cosiddetta conflittualità sociale, no? Se voi andate a cercare, mi sembra anche sul sito delle Revolutionary Poets Brigade, si trovano i video di Jack Hirschman che legge durante le manifestazioni di quella che era qualche anno fa, il movimento di Occupy, che è nato a Wall Street, con Occupy Wall Street, e Jack in questi video legge delle sue poesie durante le manifestazioni e i sit-in di Occupy San Francisco, no? Che era diciamo il versante, il nucleo della West Coast di questo movimento nato insomma negli Stati Uniti e poi diffusosi a livello internazionale. Ecco, mi sa che forse il nostro Mario sta già trovando la materia prima di cui parlavo, ovvero eccolo qua il nostro Jack che legge. Per un attimo quello accanto a lui mi era sembrato Mark Lipman, altro poeta della Revolutionary Poets Brigade di Los Angeles, con cui siamo in contatto anche per un possibile festival di poesia in Italia e che ci piacerebbe molto portare anche a Firenze, fra l'altro. Mark mi ha detto che quando sarà in Italia il prossimo anno, nel 2022, vorrebbe venire a fare delle letture insomma con un gruppo di poeti, a presentare un suo libro anche qua a Firenze. E quindi la parabola poetica di Jack e il progetto, l'esperienza delle Revolutionary Poets Brigade, come dire, danno molto il senso di quella che era un po' anche la visione che Jack aveva sia di poesia, di azione poetica e anche un po' della sua generazione di poeti, no? E lui stesso era un grande estimatore di Pasolini, ad esempio, e tant'è che ha tradotto, anche come Mario stesso diceva, molti testi di Pasolini. Ha scritto una bellissima poesia per il trentennale della morte, dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, aveva un po' un'idea di una certa cultura forse non del tutto dissimile a alcune visioni diciamo pasoliniane anche sulla sinistra, su alcune sinistre diciamo radicali della sua epoca, ovvero Jack teneva un po' a pensare che l'esperienza poetica, storica e sociale, culturale, politica di quella generazione di poeti che è stata poi storicizzata e passata alla storia come la Beat Generation fosse una parabola, una vicenda storica e poetica, diciamo, lui diceva un po' provocatoriamente, molto incentrata sulla dimensione, diciamo, fra virgolette, psichedelica, ma un po' troppo incentrata sulla dimensione politica e sociopolitica. Cioè lui sosteneva che si era trattato di un fenomeno di insorgenza, di controcultura, sicuramente molto importante e molto interessante, con cui lui era in stretto dialogo e in stretto contatto, considerando anche che appunto era un grandissimo amico personale di Lawrence Ferlinghetti. Ha avuto persino Jim Morrison fra i suoi studenti universitari quando da giovane insegnava nell'università degli Stati Uniti, però tendeva a pensare che fosse stato un fenomeno di insorgenza e di contestazione molto incentrato su una serie di aspetti appunto culturali, di costume, ecco, diciamo così, ma che avesse dato, secondo lui, probabilmente non abbastanza priorità alla dimensione e alla potenzialità, no? alla forza, alla propulsione sociale e sociopolitica che secondo lui la poesia e i poeti possono e devono avere. Di qui la sua preferenza per essere diciamo considerato un poeta di strada, no? Uno street poet inteso proprio come colui che tramite il linguaggio poetico, l'azione poetica, cerca di agire, di intervenire e di relazionarsi a quelli che sono i contesti anche più di marginalità, no? E nelle periferie, insomma, nelle metropoli americane e globali. E di qui anche il senso della sua, diciamo, fondazione, del suo aver dedicato in tutti gli ultimi anni della sua vita, di essersi dedicato appunto al progetto delle Revolutionary Poets Brigade. Ma in realtà Jack già da molto prima aveva, diciamo, dato molta importanza anche diciamo, a una visione politica e sociopolitica della sua poesia e della sua azione poetica. Lui è stato iscritto, non so esattamente in che anni, ma credo per molti anni, al Partito Comunista Americano. Mi suggerisce Mario da fino al 92. C'è anche un altro piccolo aneddoto che però bisogna un attimo verificare, perché so che per esempio Alessandra Bava e alcune persone che stanno scrivendo la biografia di Jack, che conoscono più strettamente la biografia di Jack, possono diciamo citare questo aneddoto meglio di me. Ma credo, se non sbaglio, che Jack da giovane avesse, diciamo, iniziato a lavorare e insegnare presso alcune università americane, e credo che sia stato praticamente radiato dall'università e citato perché credo all'epoca ci fosse una legge per cui se uno studente riusciva a dare un tot di esami era esentato dal servizio militare. Ed erano gli anni della guerra in Vietnam, di cui ovviamente Jack Richman era un radicale e, come dire, irriducibile contestatore, e per evitare a queste ragazze di andare a farsi massacrare in Vietnam, e fece un'azione di disobbedienza civile e li fece, diciamo, esentare tutti quanti dalla leva quando era docente universitario. Chiaramente fu, diciamo, e per questo fu praticamente radiato dalle università americane. E non solo, ma lui, che ha sempre rivendicato questa cosa, credo l'abbia sempre rivendicata, sostenendo che l'abbia fatta appunto per la vita di queste ragazze, insomma, per evitare a queste ragazze di andare a farsi massacrare e di andare a massacrare altre persone nella guerra in Vietnam. Ma per queste sue pratiche, per queste sue azioni di disobbedienza, Jack Hirschman si è, al di là, insomma, poi del riconoscimento del San Francisco Poet Laureate, alcuni riconoscimenti importanti che ha avuto anche negli Stati Uniti, ma in tarda età, diciamo, al termine di una sua vicenda personale e poetica. Ma per molti anni Jack Hirschman è stato pressoché ostracizzato da un po' tutto il mainstream culturale, poetico, letterario americano, e anche dallo stesso mercato editoriale americano, no? Tant'è che paradossalmente quella di Jack forse è una voce che si è iniziata a conoscere in modo più significativo e importante nell'ultima fase, no, della sua vicenda biografica e poetica, con il conferimento del San Francisco Poet Laureate, quarto poeta laureato di San Francisco, con la fondazione e il progetto delle Revolutionary Poets Brigade. Jack Hirschman ha iniziato, diciamo, a vedersi riconoscere almeno in parte quell'importanza, quello spessore che ha avuto nella vicenda poetica e culturale e controculturale di questi ultimi decenni. Ma per moltissimi anni della sua vita, chi lo ha conosciuto, chi ne sta scrivendo anche attualmente la biografia, sa che Jack per moltissimi anni ha avuto grandissime difficoltà, no? Anche solo di vita, insomma, o di esistenza, e addirittura forse anche di sopravvivenza, no? A San Francisco, cioè, come molti artisti purtroppo, insomma, anche importanti, ha dovuto faticare molto anche solo per riuscire a cavarsela, insomma, e anche in virtù del fortissimo ostracismo che in qualche modo c'è stato nei suoi confronti e la forte marginalizzazione che un po' tutto il sistema americano ha voluto nei confronti di un poeta che era particolarmente scomodo, non soltanto per una questione di costume, diciamo così, ma anche proprio per tutta una serie di questioni più strettamente sociali e sociopolitiche. Io farei a questo momento una piccola pausa e proverei a mandare la voce di Hirschman, del poeta laureato Hirschman, che invece con l'allora in testa si presenta con la sciarpa rossa su un furgoncino in mezzo ai ragazzi di Occupy Wall Street e alle tende. È proprio il video di cui ci parlavi, preso dal sito delle Revolutionary Poets Brigade, che è revolutionarypoetsbrigade.org. Non so se si sente, ma vediamo. Qua il poeta laureato di San Francisco, Jack Hirschman, legge una poesia riguardo al 99%. Sentiamola, 2 minuti. And at last, caught on. Caught fire, even on the shoulders of that autumn tweed jacket, those jeggings in the street, where the flames of had enough. Off your duff, let's make a revolution. are blossoming with the bodies of young and old now, bringing together hearts broken by wars into a frozen future whose turn it is finally and at last to bring down that wall street that's killing us all through an event whose time has come. 20 years in the process of growing, massing, occupying by many who don't even know why they're here, but where the instinct of gotta be, because not to be is to be not anywhere, to be nowhere, nothing, and now nothing and its nothingnesses seem stupid, elite, extremists like the banks themselves. We're fuck money futures. We're derivatives up your ass. You can black us out of the press, block and arrest us, tear gas mace and shoot us, as we know very well you will. But this time, we're not turning back. We know you're finished, desperate near the end, hysterical in your flabbergastliness. Amen. So, where the stick-up you've had coming for as long as we can count your wars. We're gonna get rid of money and those 725 bases all over the world we've slaved to pay for. No occupation but this. Occupy and come alive. That's the job even Jobs knows the hunger for. Occupy everywhere till there's nowhere we're not. This event we're in, which is inside all of us, and as in the beginning, contradictorily of course, question worthy of course, engined by justice and the only law that counts, the one of love, the two of love, the three of love, the four for the other three of love, occupy for all. Ok, allora, mentre adesso Edo attacca il computer, così fra poco abbiamo una piccola specie di sorpresina, ma ve l'annunciamo fra poco, è come sempre una poesia, però... abbiamo parlato prima, ci raccontava Edoardo, dei molti eventi che anche in Italia si sono svolti con la presenza di Hirschman. Io ricordo di aver assistito almeno a un paio, non c'ero in quello di cui mi ha mandato alcuni link invece, che si è svolto a Roma, all'Hula Hoop nel 2016, con la presenza di Hirschman. Mi ha mandato alcuni video di alcune letture che sono state, che si sono svolte dopo una serata, un incontro fra con il nucleo, se non ho capito male, delle Revolutionary Poets Brigade di Roma, la presenza di Hirschman. Ce n'è una in cui ci sei anche tu, che leggi assieme a lui. Sono quattro video, tutti brevi, tranne uno un po' più lungo, nel quale c'è proprio la poesia di Pasolini, c'è proprio una poesia di Pasolini letta dalla voce stessa di Hirschman, nonché da quella di Alessandra Bava. Adesso magari, mentre monti, io ne metterei intanto uno di questi e iniziamo a sentire la voce, ad esempio, di Jack Hirschman assieme a, vado magari a caso, e inizio con Jack Hirschman e Marco 5. Questa sì, è Insurrezione. Sweat, things in whose name cops could close. in this Naziocracy. We don't like Naziocracy. And we're sick of that Congress of Fools, which continues deaf to the men and women turning into rags all over the land. To the kids ready to blow because everything is no. We want to see the real criminals put into jail. The president, his men, and so on down the line. Because if this system is not chucked soon and a new one assumes powers to sensitively deal with the needs of the poor, what happened in Los Angeles will seem like chicken feed when all the cities go. Insurrezione. Assara Manefe. La proprietà brucia nei nostri occhi, in rivolte che sono più che rivolte, sono insurrezioni, con saccheggi che sono più che saccheggi, sono il riprendersi le cose frutto del proprio sudore, come nel cui nome i poliziotti potrebbero ridurre un uomo in poltiglia e tuttavia, pagati per proteggere la proprietà di quelli come Rodney King, essere assolti per continuare a mantenere legge ed ordine in questa naziocrazia. Non ci piace la naziocrazia e siamo stufi di quel congresso di buffoni che continua sordo agli uomini e donne che diventano stracci in tutto il paese, ai ragazzi pronti a scoppiare perché tutto è no. Tutto. E no. Vogliamo vedere i veri criminali in prigione, il presidente, i suoi uomini e via a seguire. Perché se non ci liberiamo subito del sistema e uno nuovo ne assume i poteri, per riprendere con sensibilità ai bisogni dei poveri, quello che è successo a Los Angeles sembrerà una sciocchezza quando tutte le città insorgeranno. Potente, potentissimo. Marco Cinque, che ha letto in italiano Insurrection, era anche l'autore dei suoni che abbiamo sentito in sottofondo durante la lettura di Jack. Edo, ti passo il microfono per dirci che serata era questa all'Hula Hoop di Roma, al quale ci sei stato anche tu, e introdurre anche questa e le altre letture che stiamo per far sentire. E sì, come tu stesso dicevi, Mario, la lettura che avete appena sentito di Insurrection di Jack Hirschman, letta in inglese da Jack e poi in traduzione italiana da parte di Marco Cinque, che fra l'altro, oltre che il bravissimo animatore e musicista delle letture di quella serata, è anche uno dei fondatori, è stato, diciamo, il cofondatore del gruppo romano delle Revolutionary Poets Brigade, appunto della Rome's Revolutionary Poets Brigade, insieme ad Alessandra Bava, che poi ascolteremo più avanti nella lettura, diciamo, nella sua interpretazione della poesia di Jack Hirschman, scritta nel giorno del 30° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini. Questa, diciamo, particolare serie di video, insomma di audio, che ascolteremo e che ascolterete, sono tratti da una serata, diciamo, altrettanto particolare, come spesso accade in poesia, altrettanto inusuale, no? Diciamo inattesa e inaspettata, perché era, se non sbaglio, il 13 giugno, mi sembra che anche i video riportano la data del 13 giugno del 2010, è vero, si sono stati caricati da Alessandra Bava sul suo canale il 13, ma la serata era il 10 giugno del 2016, durante la quale Alessandra Bava presentava al Pigneto, in un locale che si chiamava, perché ha chiuso da qualche anno, Hula Hoop. Era un locale del Pigneto che si chiamava Hula Hoop, ed era in quegli anni, diciamo, uno degli spazi, dei locali più attivi, anche in cui confluivano molte delle voci della controcultura romana, ma non solo, perché poi all'Ulop capitavano autori, insomma, anche da molte altre città d'Italia e a quanto pare appunto anche autori da oltreoceano, perché quella sera in cui Alessandra Bava presentava quella che all'epoca era la sua ultima raccolta di poesie, ovvero A Rima Armata, e la fortuna, diciamo, la poesia volle che proprio in quei giorni in Italia e a Roma ci fosse Jack Hirschman, che, come dicevo prima, insomma, è un grande estimatore, un grande conoscitore ed estimatore di poesia e anche di buona parte, insomma, della cultura e controcultura italiana a cavallo fra gli anni 60, 70 e 80. E quindi Jack, diciamo, essendo anche un assiduo frequentatore dell'Italia e di Roma in particolare, si trovava a Roma in quei giorni e venne alla presentazione del libro di Alessandra Bava all'Ulop, la quale Alessandra, appunto, oltre che cofondatrice insieme a Marco Cinque del gruppo romano del Revolution Poets Brigade e amica personale di Jack, che ha conosciuto al Caffè Trieste a San Francisco, è anche la sua, diciamo, biografa ufficiale, nel senso che da diversi anni sta lavorando a una biografia completa, a una, diciamo, ricostruzione e rielaborazione completa della vicenda storica e biografica di Jack Hirschman. Jack venne a quella presentazione del libro di Alessandra Bava all'Ulop, la quale Alessandra, diciamo, in pieno spirito brigadista, aveva deciso di organizzare quella presentazione coinvolgendo vari, diciamo, autori della Roms Revolution e Poets Brigade e anche vari altri autori poeti vicini al progetto delle Brigade a Roma. Alessandra decise di coinvolgerli per le letture dal suo libro, e tant'è che, appunto, la presentazione di A Rima Armata di Alessandra Bava fu fatta all'Ulop con le letture di Alessandra e le letture di Marco Cinque, Ludovica Lanini, il sottoscritto e altri autori che erano presenti quella sera. Dopo che, mi sembra, anche Jack forse lesse una poesia di Alessandra, ci venne, appunto, la pazza idea di proseguire nella seconda parte della serata insieme a Jack, no? E quindi, diciamo, ci venne, appunto, la pazza idea di improvvisare quasi un reading musicato insieme a Jack Hirschman, con letture di alcuni testi di Jack in inglese. E poiché forse anche fu proprio quasi casuale, non so se Jack o qualcuno dei presenti aveva, appunto, un libro di Jack Hirschman tradotto in italiano con vari testi di Jack tradotti in italiano e con il testo originale a fronte, e quindi praticamente questa fu, diciamo, l'occasione, fu lo spunto per organizzare, per improvvisare questo reading, che ci fu poi in effetti con Jack e con vari autori della Roms Revolutionary Poets Brigade e altri forse anche salirono sul palco quella sera, e facemmo questo reading nella seconda parte della serata insieme a Jack Hirschman di poesie di Hirschman lette da Jack stesso in inglese, come avete già ascoltato per Insurrection precedentemente, e lette poi subito dopo accanto a Jack. Si sedettero uno per volta i vari autori della Brigade Romana e altri, i quali leggevano poi subito dopo la lettura in inglese di Jack, leggevano la traduzione in italiana, la traduzione in italiano delle varie poesie che furono, appunto, scelte per il reading di quella sera. E giustamente mi suggeriscono dalla regia che adesso, insomma, subito dopo aver ascoltato la lettura di Jack Hirschman insieme a Marco Cinque di Insurrection, ascolteremo, faccio un brevissimo introduzione su questo testo, perché è uno dei testi più importanti, diciamo, più conosciuti di Jack Hirschman, che si chiama Path, tradotto in italiano come sentiero, che ascolterete in questa lettura nella versione, appunto, originale da parte di Jack Hirschman e nella traduzione italiana da parte di Ludovica Lanini, autrice, una delle primissime voci della Roms Revolution e Poets Brigade, nonché autrice recentemente pubblicata da Edizione Ensemble per la collana di Erkind, diretta proprio da Alessandra Bava, per la quale Ludovica Lanini ha da poco pubblicato un libro di poesia che si intitola Crollo d'Impero, che abbiamo avuto, fra l'altro, Ludovica insieme a Chiara Nobili anche qua a Poiuit su Radio Wombat. Ascolterete la lettura di Jack e di Ludovica Lanini di Path Sentiero, che è una breve poesia di Jack Hirschman, in cui però Jack, in modo molto profondo, insomma, e con quella forza vocale e poetica con cui diciamo, lui sa fare, diciamo, esprime un po' quello che è la sua visione, la sua concezione di poesia stessa, no? E di azione poetica, di essere poeticamente nel mondo, no? In qualche modo. Go to your broken heart. If you think you don't have one, one, be sincere. Learn sincerity of intent by letting life enter, because you're helpless, really, to do otherwise. Even as you try escaping, let it take you and tear you open, like a letter sent, like a sentence inside you waited for all your life, though you've committed nothing. Let it send you up. Let it break you, heart. Brokenheartedness is the beginning of all real reception. The ear of humility hears beyond the gates. See the gates opening. Feel your hands going akimbo on your hips. Your mouth opening like a womb, giving birth to your voice for the first time. Go singing, whirling into the glory of being ecstatically simple. Write the poem. Sentiero. Vai al tuo cuore infranto. Se pensi di non averne uno, procuratelo. Per procurartelo, sii sincero. Impara la sincerità di intenti, lasciando entrare la vita, perché non puoi, davvero, fare altrimenti. Anche mentre cerchi di scappare, lascia che ti prenda e ti laceri, come una lettera spedita, come una sentenza all'interno, che hai aspettato per tutta la vita, anche se non hai commesso nulla. Lascia che ti spedisca, lascia che ti infranga, cuore. L'avere il cuore infranto è l'inizio di ogni vera accoglienza. L'orecchio dell'umiltà ascolta oltre i cancelli. Vedi i cancelli che si aprono. Senti le tue mani sui tuoi fianchi, la tua bocca che si apre come un utero, dando alla vita la tua voce per la prima volta. Vai cantando, volteggiando nella gloria di essere estaticamente semplice. Scrivi la poesia. Ora, i nostri ascoltatori non hanno potuto vedere ovviamente questo piccolo, diciamo, questa piccola curiosità, insomma non hanno potuto vedere il video, ma hanno ascoltato la fortissima e potentissima voce di Jack Hirschman su Pat, letta poi in traduzione italiana Sentiero da parte di Ludovica Lanini. Ma è bello perché in questo video Jack Hirschman in realtà non legge la sua poesia, appunto quella, diciamo, sua, quel suo stesso e nostro piacere di essere esteticamente semplici, no? nel far uscire la nostra voce e nello scrivere la poesia, ma Jack appunto non legge ma declama a memoria Pat, no? In questo video insieme a Ludovica, e Jack Hirschman appunto non ha un foglio in mano, insomma, in cui legge questa poesia, ma la declama a memoria, insomma, prima della lettura di Ludovica Lanini. Ed è, credo, insomma, forse ancora più bello e suggestivo, no? Ascoltarlo ed ascoltare questo suo famosissimo testo in questo modo, appunto, con questa reclamazione molto incentrata anche su questa fortissima oralità, no? Quasi viscerale, che Jack aveva nell'interpretazione e nella lettura poetica. Tutto questo ovviamente è anche un incitamento, diciamo così, uno stimolo per i nostri ascoltatori a cercare questi video, che si trovano facilissimamente e anche su YouTube, e basta appunto cercare Jack Hirschman Hula Hoop 2016 e si dovrebbero trovare, che fra l'altro queste sono alcune in realtà delle letture che sono state fatte quella sera e che si trovano anche su YouTube, ma ci sono, credo, insomma, almeno altre 4-5 letture, altri 4-5 testi che si possono trovare del reading insieme a Jack di quella sera Roma all'Hula Hoop. E proseguiamo adesso, credo, proprio con la lettura che io feci insieme a Jack. Avevo una strizza clamorosa quella sera, nel senso che era tutto talmente improvvisato che già solo il fatto, insomma, di avere Jack Hirschman nello stesso luogo, insomma, nello stesso locale, era un'emozione fortissima conoscerlo per la prima volta finalmente di persona, dopo averne sentito parlare e dopo averlo ascoltato anche durante alcuni reading. Mi ricordo quello che fece nel maggio del 2011 al Circolo degli Artisti a Roma, dove nacque, credo, in quell'occasione il nucleo romano della Revolutionary Poets Brigade, o forse era appena nato, tant'è che era appena stata pubblicata la prima antologia della Rome's Revolutionary Poets Brigade, edita nel 2011 proprio da Edizioni Ensemble, prima poi della seconda, che uscisse, se non sbaglio, nel 2013, sempre a cura di Alessandra Pava. Squatting above his pennies on a piece of cardboard on the sideboard. I give him it. Tom doesn't want the People's Tribune I sell in the saloon, but give me a buck which buys four copies for four homeless people. I give the buck, maybe because Tom didn't want the paper, to a guy pitching into a trash can for some food. Just couldn't help it. Letitia needs money for her and baby Sunra, sitting in the cold outside the Cafe Roma. I give her a buck and a PT. Paul buys a PT in the Cafe Trieste and gives me $5 for 5 weeks. That's 15 copies for the homeless. JT, who I loaned the couple to last week, gives it back. Warren, who reads Eisenstein and Lenin in Kerouac Alley beside a begging can, buys a PT, and the politically advanced ex-Panther and ex-con tells whoever happens to be standing or sitting down with him to buy one too. I could go on, and I will. Poesia americana. Massù mi chiede mezzo dollaro, accovacciato sui suoi centesimi, su un pezzo di cartone, sul marciapiedi. Glieli do. Tom non vuole il People's Tribune che vendo nel bar, ma mi dà un dollaro, che vuol dire quattro copie, per quattro senza tetto. Do il dollaro, forse perché Tom non ha voluto il giornale, a un ragazzo che l'ho visto nel bidone della spazzatura in cerca di cibo. Non ne ho potuto fare a meno. Letitia ha bisogno di soldi per lei e Baby Sunray, seduto al freddo davanti al Caffè Roma. Le do un dollaro e una copia di PT. Paul compra un PT al Caffè Trieste e mi dà $5 per 5 settimane. Vuol dire 15 copie per i senza tetto. JD, a cui avevo prestato un paio di dollari la settimana scorsa, me li restituisce. Warren, che legge Eisenstein e Lenin in Kerouac Alley, vicino a un piattino per l'elemosina, compra il PT e, da ex pantera ed ex detenuto politicamente avanzato, dice a chiunque gli capiti a tiro di comprarne uno. Potrei andare avanti all'infinito. E lo farò. E questa era appunto la lettura di Jack e in versione originale inglese, accompagnata poi dalla mia lettura, appunto, della traduzione in italiano di American Poetry, che, come avrete un po', diciamo, ascoltato o diciamo potuto intuire dal testo, quantomeno dalla traduzione italiana, è una poesia, diciamo, che racconta le vicende di solidarietà urbana, no? fra varie forme di marginalità, appunto, delle periferie di una non ben specificata città americana, che potrebbe essere New York, come Los Angeles, come San Francisco, tant'è che il titolo stesso American Poetry è, credo, anche volutamente provocatorio, no? Perché appunto non parla in termini di valori nazionali, diciamo di difesa di valori nazionali americani, ma appunto, no, diciamo di con una provocatorietà su quella che poi è la realtà, no, della marginalità, del disagio e anche della forte povertà delle periferie delle metropoli americane, ma anche quella straordinaria capacità di creare reti di solidarietà, no, in questi luoghi e in queste estreme periferie, in queste sacche di marginalità delle metropoli americane, tant'è che appunto nel testo viene raccontato come questo giornale, questa rivista, il PT, evidentemente insomma in qualche modo vicino, no, ai settori, insomma agli strati più, diciamo, disagiati o poveri in qualche modo della società americana, venisse contrabbandato, no, in qualche modo da persona a persona, da mendicante a mendicante, da senza tetto a senza tetto, con varie strategie appunto di sopravvivenza e di contrabbando e di solidarietà reciproca, no? Viene un po' in mente la vicenda di Fuori Binario qua a Firenze, no? Ad esempio, che abbiamo letto e citato varie volte anche qua a Poyuit su Radio Wombat. E adesso, dopo appunto American Poetry di Jack, proseguiamo con la lettura di Hirschman nel testo originale inglese e di Alessandra Bava, cofondatrice della Rome's Revolutionary Poets Brigade e biografa di Jack Hirschman, di una poesia che ha The Days of the Death Arcane, esatto, l'arcano del giorno dei morti, che è una poesia della serie degli Arcane di Jack Hirschman, scritta in occasione del 30° anniversario della morte e dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Scusa, quindi si pronuncia Arcanes, eh? The Arcanes, sì, perché ma solo perché fa più figo, in realtà. Volevo fare lo splendido pronunciandolo in latino, no? Ma in realtà è arcane. Tre parti, dopo ogni parte in americano, Sasha legge l'italiano. The days of the dead arcane. I hope for nothing in the light of this intrapolando, in which the day on which he died, and not simply murdered, but as with all who mean much more than they were, like a whole nation, even a world, assassinated. America's voting to re-elect a war machine, to continue clubbing and then running over entire peoples. So here he is, one of Italy's grandest poets, who's lain in his grave in Casarsa, small Friuli town, for 29 years. Six small laurel trees over him and Susanna Colucci, his mother, lying beside him in ironic, touching irony. And the sound sorrow makes when falling to itself, touching no bottom, with its sadness of blood and its melancholy of mind, in a world out of joint. Not in the sense of not having one between one's fingers, or sitting in a joint and drinking away the downright injustice of this day, but meaning that a bought and paid for constitution, with a grin and a gun at the nape of the world, has, among other things, assassinated Pierpaolo Pasolini again. L'arcano del giorno dei porti. Non ho alcuna speranza alla luce di questo intrappolando nel giorno in cui lui morì. Non semplicemente ammazzato, ma come per tutti quelli che significano molto di più di quello che furono, come un'intera nazione, persino un mondo, assassinato. L'America vota per rieleggere una macchina da guerra, per continuare a bastonare e poi calpestare interi popoli. E dunque eccolo, uno dei più grandi poeti italiani, che giace in questa tomba, a Casarsa, una piccola città in Friuli, da 29 anni. Sei piccoli allori su di lui e Susanna Colussi, sua madre, che giace accanto a lui in commovente ironia. E il suono che fa il dolore quando cade attraverso se stesso e non tocca fondo, con la sua tristezza di sangue e la sua malinconia di mente, in un mondo dislocato, non nel senso di non avere uno spinello tra le dita, o seduto da qualche parte a bere l'ingiustizia bella e buona di questi giorni, ma volendo dire che è una costituzione comprata e pagata con una smorfia e una pistola alla nuca del mondo, ha, tra le altre cose, assassinato Pierpaolo Pasolini di nuovo. What serial days of the dead ahead come? Even kid sister Marilyn, whom he poeticized so beautifully, is in the wings, shuddering on this cenotaph I'm constructing of Aztec peacock feathers 6 feet long, photos of Marx, Lenin, beside a hammer and sickle flag, Mary and Joseph, and baby Jesus too, and Jesus the Christ, and throw in Rumi and King as well, a mountain of hair, and a pyramid of shoes. It's the pits, it's the pits, it's the literal pits, it's the pits that rule the world. So many dead eyes, I think there are more than stars in the sky. And they here too gathered at the tips of my forefinger and thumb, holding this pen. All the stars that died years and years ago, my absentee votes for them. And neither nor between two men of war, Adaveni Bafon, ah, there you are. Let's have a great D.O.D. D.O.D. Oh, D.O.D. Adaveni Bafon. Look at that street kid, 6 years old, a tiny accordion in his hands, a cardboard box with nothing in it and squatting knees, singing on Bahadur Street to passing crowds, and all who take notice of him are a bank guard who shoots him 5 meters away where he starts up again, and a cop standing over him who gets up and disappears like in a Pasolini movie, and our eyes with coins in them flinging themselves around the corner or wherever he's running to. Che serie di giorni di morte a venire. Perfino la sorellina Marilyn, che lui mise in poesia così magnificamente, è fra le quinte, rabbrividendo su questo cenotafio che sto costruendo con piume di pavone azteco, lungo 2 metri, foto di Marx, Lenin, vicino alla bandiera con falce e martello, Maria Giuseppe e pure il bambino, e Gesù, il Cristo, ci metto dentro anche Rumi e King, una montagna di capelli e una piramide di scarpe. È l'inferno, esattamente l'inferno. È l'inferno che governa il mondo. Tanti occhi morti. Penso che ce ne siano più che le stelle in cielo. E sono anche qui, raccolte sulle punte del mio pollice e indice che tengono questa penna. Tutte le stelle morte anni e anni fa. Il mio voto per corrispondenza è per loro. E Nader, l'uno nell'altro, fra 2 uomini di guerra. Ad avvenir, baffone. Ah, eccoti là. Che sia un gran Dio di. Ad avvenir, baffone. Guarda quello scugnizzo di 6 anni. Una minuscola fisarmonica tra le mani. Inginocchiato davanti a una scatola di cartone vuota. Che canta sulla fardaggia stritta. La folla che passa. E gli unici che si accorgono di lui sono una guardia della banca che lo fa spostare 5 metri più in là, dove lui ricomincia da capo, e un poliziotto che lo sovrasta, e lui si alza e scompare come in un film di Pasolini, e i nostri occhi pieni di monetine che si gettano dietro l'angolo ovunque lui stia correndo. Of flutes that like the cars doing their ordinary rounds in the piazza alone. 13 riders on horseback, the last one a woman, some wearing cowboy hats, one wrapped in an American flag, heading up the street like a posse of disciples of Bush. Oh, day of the dead tomorrow, when it's over America, over there, where all is battery, derangement, and carelessness. What days of the dead ahead, full of bodies on so many hot corners of the world, pieces of Shaheed and his or her victims, and the bluster and twisted tripe palavering out of the mouths of the media. The Gunstitution is speaking. War vote. Thug vote. For the gang swarming bashes in this desert of consumerism. Goon vote. To keep chill on the lips and blow away those blowjob communist bastards. Beat them with 2x4s. Run them over with their own cars. Into the cowering houses like the rain of bullets between the eyes before they even kill them, before they reach for and blow us up. The zeros within the zeros been completed. The left's confirmed frog throat, a whelp whine. And the right is a dirty sun with a big black oily eye. But puzzling his ashes from his burning, burning spirit of the stemmy under-earth. Puzzling his ashes rise on phoenix wings of flame and cry, Bush shit! Bush shit, Obama! Hung with Christian soldiers! Marching to the field in the dead of autumn with your mugs and beards. You who bomb and kill the very origin of humanity. You who shred truth and work a vulture appetite for blood in this carrion world. Soon will smell the blossom of victory. Its fragrance enchanting you, irresistibly, adoringly, you'll fall to your knees to smell it. And it will oblige you by blowing up in your dead face. Nudo fino alla cintola, al sole, caldo, su un balcone a Baronissi vicino Salerno, sento il clop degli zoccoli. Poi vedo, a fianco alle macchine che fanno il solito giro intorno alla piazza sottostante, 13 cavalieri a cavallo. L'ultima è una donna, qualcuno con cappelli da cowboy, una è avvolta in una bandiera americana. Vanno lungo la strada, come una banda di discepoli di Bush. Oh, giorno dei morti, domani, quando sarà finita, America, laggiù, laggiù, dove tutto è aggressione, follia e abbandono, che giorni dei morti a venire, pieni di corpi di tanti angoli roventi del mondo, pezzi di Shahid, delle sue, di lui o di lei vittime, e le spacconate, le sciocchezze contorte che cianciano le bocche dei media. La Costituzione delle armi parla, vota guerra, vota bandito per le bande di delinquenti che fanno cagnare in questo deserto di consumismo. Vota picchiatore per continuare a tenere l'assassino sulle labbra e far fuori quei pompinari comunisti bastardi. Picchiarli con mazze 2x4, passarci sopra con le loro stesse automobili. Irrompere nelle case accovacciate come la pioggia di proiettili in mezzo agli occhi, prima persino che loro. Ucciderli prima che raggiungano e ci facciano saltare in aria. Lo zero dentro lo zero è completato. La sinistra è un incallito gracidio di rana, il guaito di un cagnolino. E la destra è un sole sporco, come un grosso occhio nero oleoso. ma le ceneri di Pasolini, dalle sue fiamme, dallo spirito in fiamma di bestemmia, sottoterra, le ceneri di Pasolini si innalzano su ali di fenice di fiamma e urlano: Bullshit! Bullshit! O bomber! Avanti soldati cristiani, in marcia verso la paura, in pieno autunno con i vostri boccali e le bare, voi che bombardate e uccidete la radice stessa dell'umanità, voi che fate a pezzi verità e stimolate appetiti da avvoltoio di sangue in questo mondo carogna, ben presto fiuterete i fiori della vittoria. La loro fragranza vi incanterà irresistibilmente. Con adorazione cadrete in ginocchio per annusarli e loro vi ringrazieranno esplodendo sulla vostra faccia morta. Direi molto molto forte, molto molto potente e suggestivo questo testo di Jack, scritto appunto in occasione del 30° anniversario della morte e dell'uccisione di Pierpaolo Pasolini, di cui Jack Hirschman era un fortissimo, un grandissimo estimatore. Sia la lettura di, tanto la lettura di Jack quanto quella di Alessandra, anche se ovviamente credo Jack veramente fosse inimitabile, insomma, da questo punto di vista, raggiungono dei picchi vocali incredibili, no? Durante questa lettura, durante questa interpretazione fatta all'Hula Hoop del testo The Days of the Death Arcane, dedicato a Pierpaolo Pasolini. Io penso veramente chiunque abbia ascoltato Jack Hirschman dal vivo è qualcosa che veramente lo si può raccontare non solo a nipoti, ma proprio alle folle, no? Perché veramente l'interpretazione poetica nella lettura di Jack Hirschman è qualcosa di incredibile, no? Che proprio ti lascia atterrito, no? Quasi questa forza vocale incredibile che lui aveva, che a volte ascoltandolo, quando mi è capitato appunto alcune volte di ascoltarlo dal vivo, mi veniva veramente da pensare che sembrava uscisse direttamente da una fressa di officina, no? la sua voce quando leggeva, che sembrava proprio forgiata in quegli stessi luoghi e in quelle stesse, diciamo, dinamiche e vicende a cui lui ha dedicato tutta una vita intera, fatta appunto di poesia, di militanza, di solidarietà e di lotta per i diritti del lavoro, dei lavoratori e di tutti gli oppressi e gli emarginati del mondo. E io, diciamo, in questi anni mi è capitato di conoscere Jack, di ascoltare, di leggere molti suoi testi, di ascoltare alcune sue letture, e non so se è mai, non so se a te Mario, a chi ci ascolta, è mai capitato di avere questa sensazione. Io non ho mai fatto delle cover, no? Anche perché non sono un musicista, mi occupo in particolare di poesia, non ho mai fatto delle vere e proprie cover poetiche, no? C'è chi traduce, c'è chi appunto a volte si diverte anche a riprendere alcuni testi di alcuni poeti e a rielaborarli, no? Non mi è mai capitato, ma avevo sempre avuto un po' la sensazione che, diciamo, che le cover, diciamo, più carine, fra virgolette, che fosse qualcosa che aveva senso fare solo quando uno aveva la sensazione che un qualcosa, in questo caso un testo poetico, esprimesse già una forte, un qualcosa di molto forte, no? Di molto profondo, di potenzialmente universale, ma come dire, potesse dare a chi lo leggeva la sensazione che non che mancasse qualcosa, no? Però ecco, diciamo, la poesia, l'università della poesia consiste proprio nel fatto che non finisce, no? Non finisce mai, ma continua, e quindi continua e può continuare non solo in chi l'ha scritta, ma non meno in chi la legge, no? E quindi, diciamo, ogni poesia, ogni testo poetico può continuare, può proseguire, prosegue nella vita e nell'esistenza di chi lo legge e di chi lo incontra e di chi lo ascolta, e nella vita e nell'esistenza di ogni persona si può proseguire, no? Si può ampliare e può diventare, provare a diventare, diventa di fatto universale, no? O ancora di più universale. L'unica volta in cui mi è capitato di avere la sensazione che mi sarebbe piaciuto provare a come dire, far crescere, no? A rielaborare un testo poetico, è stato quando ho letto un testo di Jack Hirschman, che fra l'altro è un suo testo anche abbastanza conosciuto, che si intitola Un giorno. È una brevissima poesia di Jack che potete una brevissima e molto bella poesia di Jack che potete facilmente trovare anche su internet, e tratta da una sua raccolta poetica che si intitola Volevo che voi lo sapeste, del 1999. E quando ho letto questa poesia ho avuto come una sensazione molto forte, che ovviamente che non ero certo io quello che poteva, diciamo, aggiungere qualcosa alle parole di Jack Hirschman, no? Ma che questa poesia in qualche modo stava crescendo dentro di me, no? Stava crescendo e stava espandendosi, e quindi ho provato in qualche modo negli anni, proprio per divertissement, come si dice in francesismo, per gioco poetico, a farla crescere, no? A provare a farla diventare qualcosa, no? Qualcosa che io sentissi, che sentisse, diciamo, ancor più universale, no? In qualche modo che sentissi parte anche di una mia, diciamo, universalità, no? E quello appunto che è nato come per gioco, vorrei che fosse un piccolissimo e umilissimo, ovviamente, omaggio che mi piacerebbe fare a Jack Hirschman quest'oggi a Poi You It su Radio Wombat, per ricordarlo, visto che appunto ho avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo personalmente e di leggere accanto a lui quella sera di giugno del 2016 all'Hula Hoop. E allora concludo, diciamo, questo mio intervento e questo mio ricordo di Jack con la lettura, diciamo, con una mia libera reinterpretazione della sua poesia, della poesia di Jack Hirschman, Un giorno. Un giorno smetterò di annusare la strada, chiuderò gli occhi soltanto, smetterò di chiudere gli occhi e ascolterò soltanto. Un giorno smetterò di ascoltare, camminerò soltanto, smetterò di camminare e aspetterò soltanto. Un giorno smetterò di aspettare, colorerò soltanto, smetterò di colorare e penserò soltanto. Un giorno smetterò di pensare, guarderò nel vuoto soltanto, smetterò di guardare nel vuoto e spegnerò la luce soltanto. Un giorno smetterò di spegnere la luce, saluterò soltanto, smetterò di salutare e sognerò soltanto. Un giorno smetterò di sognare e vivrò soltanto, smetterò di vivere e morirò soltanto. Un giorno smetterò di morire, scriverò soltanto, smetterò di scrivere ed amerò soltanto. I'm going up Siamo in conclusione di questa lunga puntata di ripartenza della trasmissione For You It. Non ci resta che, prima di lasciarvi con un paio di poesie, ancora ricordare un po' di informazioni. Intanto che questa trasmissione, alla sua terza stagione, riprende da questo mese, andrà avanti anche quest'anno, ogni prima domenica del mese, dalle 15... ogni seconda... sbaglio subito, ogni seconda domenica del mese dalle 15:30, poi si potrà ascoltare in replica in delle fasce orarie che ancora non abbiamo stabilito, ma ci saranno almeno un paio di momenti ancora in settimana, e come sempre in podcast su radiowombat.net, dove anche ci sono archiviate tutte le altre, le scorse vecchie puntate, come del resto accade con tutte le trasmissioni. Nella puntata di oggi, all'inizio, abbiamo ricordato e parlato del Festival Firenze Rivista, che si terrà questo fine settimana 17, 18 e 19 settembre presso Le Murate. Programma ricchissimo, ne abbiamo letto alcune parti, lo si può scaricare e trovare per intero su firenzerivista.it, quindi nulla, andate pure lì a vedere. Abbiamo raccontato poi dell'opuscolo, del libretto pubblicato da Edizioni Piagge, i cui proventi andranno tutti a finanziare la lotta degli operai GKN, questo sabato manifestazione alle 15 fra il resto. Abbiamo raccontato della presentazione di ieri di Stagioni Scalene di Edoardo Olmi, che si è tenuta in Polveriera, ne abbiamo parlato un po', ma abbiamo anche promesso che sarà il mese prossimo il momento in cui ne ritrasmetteremo una parte o integralmente, ora vediamo, senz'altro comunque il mese prossimo, perché abbiamo pensato questo mese qui, invece di parlare, come abbiamo fatto, più a fondo di Jack Hirschman, il poeta americano scomparso lo scorso 22, se non sbaglio, agosto, sì. Allora, prima di salutarci vi vorremmo proporre un altro paio di letture. Intanto, prima... volevo dire questa cosa, che abbiamo parlato che era il quarto, giusto? Abbiamo scoperto poeta laureato di San Francisco. Mi raccontavi anche che il quinto poeta laureato di San Francisco l'avete incontrato poi per un altro evento, infatti ti do parola. Ci è capitato, già da quando eravamo assieme qua a condurre questa trasmissione, di commemorare e ricordare, insomma, la morte e soprattutto la vita, direi, di un altro grande poeta americano, che è stato il primo poeta laureato di San Francisco, che era... Lawrence Ferlinghetti. Abbiamo parlato di lui, ovviamente di Hassanati al-Nassar, anche ieri durante la presentazione, e allo scorso dicembre abbiamo commemorato il suo anniversario. Abbiamo parlato oggi di Jack Hirschman, insomma, un sacco di grandi, Edo, che se ne vanno. Beh, in effetti sembra che questi anni siano stati un po' una cesura storica da molti punti di vista, no? Non solo appunto per l'evento pandemico e per tutto quello che ne è conseguito, insomma, socialmente, politicamente e storicamente appunto, ma anche perché anche nel mondo della poesia ci sono stati un po' di grandi appunto che ci hanno salutati, no? Che ci hanno salutati chiaramente fisicamente, ma che sono rimasti e sono ancora ben presenti con noi per i versi che ci hanno lasciato e per... appunto per la poesia e per l'importanza di quello che in vita hanno fatto e che hanno lasciato e cercato di lasciare alle future generazioni. Fra questi, oltre a Jack Hirschman, scomparso fra l'altro in modo anche un po' imprevisto, nel senso che io sappia, insomma, non mi sembrava che ultimamente fosse o cercasse di essere anche piuttosto attivo Jack, ancora con il progetto delle Revolutionary Poets Brigade a San Francisco. Ma oltre a Jack Hirschman, lo scorso 22 agosto, anche Lawrence Ferlinghetti appunto a febbraio, se non sbaglio, ci ha lasciato, insomma, alla tenera età di 101 anni. E quindi, insomma, sicuramente, non so tu che ne pensi, sensazione hai, Mario, ma io ho avvolto la sensazione che, come dire, e mo adesso sono cazzi nostri, nel senso, adesso, insomma, tanti anche maestri, fra virgolette, o tante personalità, ecco, con cui anche la nostra generazione in qualche modo si è formata, con cui quantomeno si è relazionata in modo più o meno attivo, più o meno critico, ma con cui sicuramente abbiamo avuto anche un confronto e a volte un dialogo importante. Beh, adesso anche loro hanno fatto il loro tempo e forse adesso veramente tocca a noi, no? Essere all'altezza, fra virgolette, di questo momento storico, ecco. E quindi, a proposito anche di momenti storici e di ricorrenze storiche, ieri, giorno fra l'altro della presentazione di Stagioni Scalane in Polveriera, era anche il 20° anniversario degli attentati dell'11 settembre, a cui è conseguita la guerra in Afghanistan, insomma, con tutte le sue tragicità e anche con le sue recenti e altrettanto drammatiche, con i suoi recenti e altrettanto drammatici risvolti di questi ultimi giorni. E abbiamo ricordato questi anniversari e anche quelli, fra l'altro, dell'11 settembre, ovviamente, del 73, con il colpo di Stato e il golpe militare di Pinochet in Cile, e anche un altro ventennale di un paio di mesi fa, quando, fra l'altro, a luglio del 2021 è uscito per l'appunto Stagioni Scalane, era anche il ventennale di Genova e dei fatti del G8 di Genova. Quindi, insomma, sono ricorrenze importanti. Abbiamo pensato di chiudere questa prima puntata della terza stagione di Poi It, dedicata al ricordo di Jack Hirschman, con altre due letture di Jack, fra cui un suo testo molto importante, che è parte della serie degli Arcane, che è il testo scritto e dedicato all'11 settembre del 2001. Un lutto dal quale potremmo svegliarci, essendo stati risvegliati da una tale luce, per vedere la luce alla fine. Che noi siamo ora non più, nemmeno, ma siamo stati più di altri, una terra violenta. Nei nostri mercati monetari, nella nostra legge e ordine, nei nostri quotidiani, nei nostri letti, una vita violenta. Fingendo un'innocenza impenetrabile e il potere simbolizzato da quelle gigantesche Twins. La loro distruzione, sogno di Hitler, sognato persino prima che fossero costruite, prima che il suo suicidio cominciasse a combattere al fianco del fanatismo religioso. E noi, che avevamo ereditato tanto della sua violenza ed anticomunismo, noi che infine abbiamo persino finanziato l'attacco alla nostra pretesa innocenza, noi così a nostro agio, con il fascismo negato naturalmente, con la brutalità rinnegata naturalmente, con la libertà sentimentalizzata da un nucleo di vuoto distruttivo, disperazione, cinismo di fondo. Figli di un nichilismo a stelle e strisce, naturalmente, negato e rinnegato, dalla California all'isola di New York, fratelli e sorelle, i miei, così tristemente colpiti, così profondamente colpiti. L'israeliano dice, ora lo sanno, lui che è stato infestato da geni di una siringa di male indimenticabile, lunga 12 anni. Probabilmente siamo noi ora a sapere che cosa significhi essere totalmente detestati fino all'apocalisse. Ed è una difesa fascista contro un attacco fascista che il mondo sta preparando, perché non c'è altro che quel nulla di un pianeta scorpione che si mangia la coda. Ed è la consapevolezza di questa verità che raddoppia il lutto e rende più profonda la paura della perdita dell'innocenza, che già prima era una bugia. Questa volta siamo davvero intrappolati dalla verità e ci addolora, noi che siamo stati così a nostro agio, nella libertà della menzogna. Questa volta la mobilitazione totale della consapevolezza della guerra dice: anche se il pacifismo cresce, anche se esso impedirà attacchi in risposta, anche se la non violenza trionfa, il futuro sarà come un uomo di colore o come l'erotismo, che pur non più linciato o censurato, comunque non si sentirà mai completamente a proprio agio in questa vita terrena. Il dominio del nulla è completo ora. Dio assassinato da un lato, Dio suicidato dall'altro. Il trionfo del fascismo. Siamo condannati a vivere le nostre vite non violente, comprando e vendendo e pregando la violenza nostro malgrado. Perché non c'è nient'altro. Nulla è cambiato. È solo, più chiaramente, rivelato. Cecilia, so che sei corsa verso, non via da, per aiutare, salvare, e che hai visto il secondo aereo svanire nel muro mentre correvi in quella direzione, e che hai visto per la prima volta nella tua vita esseri umani saltare giù da finestre altissime e le Twins collassare in un'unica montagna ripiegata di una morte moltiplicata per mille e macerie e polvere. Nulla di ciò che ho visto su uno schermo televisivo migliaia di miglia lontano in un altro continente può avvicinarsi all'orrore di ciò che tu hai visto mentre correvi verso la scena fin quando non hai più potuto. Nuvole di polvere si espandevano nelle strade e quelli che correvano via dal nucleo per salvarsi ti dicevano che non potevi andare oltre, non potevi aiutare, non potevi salvare, oh mia coraggiosa, coraggiosa figlia. So che il tuo dolore non viene da lontano, invano, invano. Sono morti gridi e la tua disperazione allora forse ci risparmia, forse addirittura ci salva dallo shock che ha trasformato il futuro in un arcaico scavo archeologico. La notte che è arrivata, la notte tecnologica, lunga tutto il giorno, e con essa il lutto, il digiuno dei veloci, il gusto amaro del proprio deserto. E che non è solo nostro, perché tutti parliamo con bocche di sabbia, e le dune crescono a onde con le parole, in un'oscurità abbagliante nel sole, che è infranto in ciascuno di noi. Per tutta la notte, aeroplani ed elicotteri hanno volato sui portici, terra bruciata di Bologna, dove mi ritrovo in lutto. È diventato lo stato dell'essere, una bandiera nera a mezz'asta, sospesa a mezz'aria. L'arcano delle torri gemelle di Jack Hirschman, il penultimo testo che vi proponiamo oggi. Nel salutarvi con un'ultima poesia, la leggo io in italiano, è breve, e in seguito la sentiamo con la voce di Jack Hirschman in inglese. Prima di salutarvi vi ricordiamo giusto un paio di siti dai quali abbiamo preso alcune delle informazioni di oggi, li abbiamo già citati durante il programma. Intanto firenzerivista.it per il festival, le partecipazioni e il programma di questo fine settimana, il sito della Casa della Poesia, appunto, da cui abbiamo preso la biografia di Hirschman, alcuni dei testi e la lettura della sua voce che stiamo per trasmettere adesso. Ricordiamo che la Casa della Poesia si occupa di raccogliere e conservare anche file audio, video, biografie, oltre che i testi dei poeti e delle poetesse. Infine il sito revolutionarypoetsbrigade.org, il sito internazionale delle brigate dei poeti rivoluzionari di cui abbiamo parlato, fondate appunto nel 2009 da Hirschman, e dal quale abbiamo preso anche la sua lettura fatta a San Francisco durante Occupy San Francisco. Un paio di appuntamenti durante questa fine settimana: giovedì, venerdì 17 alle 17 la presentazione l'abbiamo già anche detto prima, del tomo online, secondo e ultimo, della guida all'autodifesa digitale, con un paio di attivisti del collettivo dell'ACLAB fiorentino IFDU presso le Murate, alle 19 del sabato. Del giorno dopo invece la lettura di Alice Diacono di Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, edito da Battaglia Edizioni, l'abbiamo presentato con l'autrice e l'editore su questi microfoni. E invece un tuo prossimo evento, Edo, anche alla Limonaia di Villa Strozzi, mi sbaglio? Sì, giusto Mario, anzi grazie che lo hai ricordato. Il 22 settembre dalle 19 ci sarà un evento di una rassegna di presentazione di libri alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze, rassegna che si chiama Equilibri Instabili, a cura di Max Di Mario, che fra l'altro è un bravissimo poeta e poeta performer che abbiamo il piacere di conoscere e di aver ospitato nella seconda antologia di Affluenti. E durante questa rassegna Equilibri Stabili a Villa Strozzi, mercoledì 22 settembre, ci sarà microfono aperto dalle 19 con alcune letture a due voci anche mie e di Gabriella Beccarelli, e poi intorno alle 20:30 la presentazione appunto di Stagioni Scalene, la mia nuova raccolta di poesie. L'appuntamento allora è con noi qui invece il mese prossimo, seconda domenica del mese alle 15:30 per la puntata di ottobre, e adesso vi lasciamo con Interludio Umano di Jack Hirschman. Lei stava appoggiata al muro vicino all'Hotel Tevere, con in mano un bicchiere di plastica, quando iniziò a piovere. Ho cercato una moneta, le sono andato vicino e l'ho fatta cadere nel bicchiere. Cade sul fondo di un'aranciata. Sono arrossito, ho guardato i suoi capelli devastati, la sua pelle, i suoi capelli diventati prematuramente grigi, e ho detto che mi dispiaceva, che avevo pensato che avesse bisogno di soldi. «Ne ho bisogno», rispose e sorrise. «Stavo solo bevendo qualcosa». E restammo così, a ridere assieme, mentre guardavamo le gocce di pioggia cadere sul lago d'arancia sopra la moneta che affondava. Human Interlude, for Terry Garvin. She was standing against the wall near the Tevere Hotel, holding a plastic cup as it began to rain. I dug for a coin, walked up to her, and dropped it in. It fell to the bottom of an orange drink. I blushed, looked into her ravaged eyes and skin and hair prematurely graying, and said I was sorry, I thought she needed some bread. I do, she said, and smiled. I was just having a little drink. And we stood there laughing together as we watched the raindrops fall on the orange lake above the drowning money. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This your boy T-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Fucking book. direi che è il modo più bello per viaggiare.